Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. L'uomo doveva aver trattenuto il fiato per non essersi fatto notare tanto a lungo. Ora si alzò cerimonioso, evidentemente scontento di essere stato fatto segno di attenzione. Agitando le mani come brevi ali, sembrava ricusare presentazioni, saluti e non volere in nessun modo disturbare gli altri con la sua presenza, chiedendo vivamente di tornare nell'ombra, che si dimenticasse la sua presenza. Ma questo non poteva più essergli concesso. «Ci avete proprio sorpresi», disse l'avvocato come spiegazione, facendo un cenno di incoraggiamento al signore perché si avvicinasse, cosa che quello fece adagio, guardandosi intorno perplesso e tuttavia con una certa dignità. «Il signor capo ufficio... Oh, chiedo scusa, ho dimenticato di fare le presentazioni. Il mio amico Albert Kappa, suo nipote, il procuratore Joseph Kappa, e qui il signor capo ufficio... Il signor capo ufficio è stato tanto gentile da venirmi a trovare, e solo chissà quanto il signor capo ufficio è sovraccarico di lavoro saprà apprezzare il valore di questa visita. Ciò nonostante è venuto, discorrevamo tranquilli per quanto me lo permetteva la mia debolezza. Non avevamo proibito a Leni di far passare visitatori perché non aspettavamo nessuno, ma credevamo che saremmo rimasti soli. Ma poi sono venuti i tuoi colpi di pugno, Albert. Il signor capufficio si è ritirato con seggiola e tavolo nell'angolo, ma adesso viene fuori che forse, cioè nel caso che lo si desideri, abbiamo da parlare di un argomento in comune e possiamo di nuovo tornare insieme. Signor capufficio, disse chinando il capo con un sorriso di sommissione, indicando una poltrona vicino al letto. Purtroppo posso rimanere solo qualche minuto ancora, disse il capo ufficio con voce gentile, sedendo comodo nella poltrona e guardando l'orologio. Gli affari mi chiamano, ma in nessun caso voglio lasciar cadere l'occasione di conoscere un amico del mio amico. Kappa poteva osservare tutto con tranquillità, perché nessuno si occupava di lui. Il capo ufficio, visto che era stato tirato fuori, prese il bandolo della conversazione come pareva fosse sua abitudine. L'avvocato, la cui precedente debolezza doveva forse servire soltanto per allontanare la nuova visita, ascoltava attento, la mano all'orecchio. Lo zio, in funzione di candeliere, dondolava la candela su una gamba, l'avvocato lo guardava spesso con apprensione, perse presto l'imbarazzo e fu solo deliziato sia dal modo di parlare del capo ufficio, sia dei movimenti carezzevoli, ondulanti delle mani con cui lo accompagnava. Kappa, che si appoggiava alla fine del letto, era del tutto trascurato, forse persino intenzionalmente, dal capo ufficio, e serviva i due vecchi solo come ascoltatore. Da parte sua non sapeva nemmeno di cosa parlavano, e pensava ora all'infermiera, al modo in cui l'aveva trattata lo zio. Ora, se non avesse già visto il capo ufficio, forse addirittura nell'assemblea per il suo primo interrogatorio. Forse sbagliava. Ma il capo ufficio sarebbe stato benissimo in prima fila, tra i vecchi dalle barbe rade. A questo punto un rumore dall'anticamera, come di porcellana infrante, fece tendere l'orecchio a tutti. «Vado a vedere cosa è successo», disse Kappa, e uscì adagio, come per dare agli altri ancora occasione di trattenerlo. Era appena entrato in anticamera e cercava di raccapezzarsi nel buio, quando sulla mano con cui stringeva ancora la porta si posò una piccola mano, molto più piccola della mano di Kappa, e richiuse piano la porta. Era l'infermiera che stava lì ad aspettarlo. «Non è successo niente», sussurrò. «Ho solo buttato un piatto contro il muro per farla venire fuori». Kappa, imbarazzato com'era, disse: «Anch'io ho pensato a lei. Tanto meglio», disse l'infermiera. «Venga». Dopo qualche passo, arrivarono a una porta coi vetri opachi che l'infermiera aprì davanti a Kappa. «Entri pure», disse. Era certo lo studio dell'avvocato. Thank you. Qua, disse l'infermiera, indicando una cassapanca scura con lo schienale intagliato. Anche dopo essersi seduto, K continuava a guardarsi intorno. La stanza era alta e grande. I clienti dell'avvocato dei poveri dovevano sentirsi sperduti. La scrivania, lunga quasi quanto l'intera stanza, stava vicino alla finestra, disposta in modo che l'avvocato volgeva le spalle alla porta, e il visitatore, come un vero intruso, doveva percorrere la stanza in tutta la sua ampiezza prima di poter vedere il viso dell'avvocato, se questo non era stato così gentile da girarsi verso il visitatore. K credette di vedere i piccoli passi con cui i visitatori si avvicinavano all'imponente scrivania. Poi dimenticò tutto questo ed ebbe occhi solo per l'infermiera, che gli sedeva molto vicina e quasi lo premeva contro il bracciolo. «Pensavo», disse, «che sarebbe venuto da solo, senza che dovessi prima chiamarla. È stato proprio strano. Appena entrato non ha fatto che guardarmi e poi mi ha fatto aspettare. Mi dica pure Leni», soggiunse rapida in modo inatteso, come per non perdere un istante del loro colloquio. «Volentieri», disse K. «Ma quanto alla stranezza, Leni è presto spiegata. Anzitutto dovevo pure ascoltare le chiacchiere dei vecchi e non potevo correre via senza un motivo. Poi c'è il fatto che non sono sfacciato, ma piuttosto timido. E anche lei, Leni, non sembrava proprio una che si conquista in un baleno». «Non è questo», disse Leni appoggiando il braccio sullo schienale e fissando K. «Piuttosto non le sono piaciuta e non le piaccio, è probabile neppure adesso». «Piacere non sarebbe molto», mormorò K evasivo. «Ah», disse lei sorridendo, e con il commento di K la sua esclamazione acquistò una certa superiorità. Perciò K tacque un poco. Ora si era abituato al buio della stanza e poteva distinguere vari particolari dell'arredamento. Lo colpì specialmente un grande ritratto appeso a destra della porta. Si chinò in avanti per vederlo meglio. Rappresentava un uomo in toga di giudice. Era seduto su un alto seggio, la cui doratura spiccava in più punti del quadro. Insolito era che questo giudice non stava seduto tranquillo e dignitoso, ma premeva il braccio sinistro contro la spalliera e il bracciolo, mentre il destro era completamente libero e solo stringeva il bracciolo con la mano, quasi volesse da un momento all'altro balzare in piedi con una mossa improvvisa e forse indignata per dire qualcosa di decisivo o magari pronunciare la sentenza. Si poteva immaginare l'imputato in fondo alla scala, di cui nel quadro si potevano vedere gli ultimi gradini coperti da un tappeto giallo. «Forse questo è il mio giudice», disse K, accennando con un dito al quadro. «Lo conosco», disse Leni alzando a sua volta gli occhi verso il quadro. «Viene spesso qui. È un ritratto di quando era giovane, ma lui non può avere mai avuto niente di somigliante con il quadro, perché è quasi un nano. Eppure nel quadro si è fatto tanto allungare perché è di una vanità assurda, come tutti qui. Ma anch'io sono vanitosa e mi dispiace molto di non piacerle affatto». La sola risposta di K a quest'ultima osservazione fu che abbracciò Leni e la trasse a sé. Lei gli appoggiò in silenzio la testa sulla spalla. Ma riferendosi al resto, lui disse: «Che grado ha?» «È un giudice istruttore», disse afferrando la mano con cui K la teneva abbracciata e mettendosi a giocare con le sue dita. Thank you. Ancora un giudice istruttore, disse K deluso. Gli altri funzionari si nascondono, ma lui siede su un seggio. Tutta un'invenzione, disse Leni chinando il viso sopra la mano di K. In realtà siede su una seggiola da cucina, su cui è stata ripiegata una vecchia coperta da cavalli. Ma lei deve pensare al suo processo tutto il tempo, soggiunse adagio. No, no, no davvero, disse K. Probabilmente ci penso, anzi, troppo poco. Non è questo l'errore che lei fa, disse Leni. Lei è troppo intransigente, così ho sentito. Chi l'ha detto? Chiese K. Sentiva il suo corpo contro il suo petto e guardava i capelli folti, scuri, intrecciati, stretti. Rivelerei troppo se lo dicessi, rispose Leni. Non chieda nomi, per favore, ma si corregga del suo difetto. Non sia più tanto intransigente. Contro questo tribunale non ci si può difendere, bisogna fare la confessione. Faccia la confessione appena le capita. Solo dopo sarà possibile sfuggire. Solo dopo. Neppure questo, tuttavia, è possibile senza un aiuto esterno. Ma per questo aiuto non deve preoccuparsi. Sarò io a darglielo. Lei sa molte cose di questo tribunale e degli imbrogli necessari, disse K. E siccome Leni gli si stringeva troppo addosso, la prese sulle sue ginocchia. «Così va bene», disse lei accomodandosi meglio. Si lisciò la gonna e si aggiustò la camicetta. Poi si appese con le due mani al suo collo, si lasciò andare all'indietro e lo guardò a lungo. «E se non faccio la confessione, lei non potrà aiutarmi?» chiese K per provare. «Sto cercando l'aiuto di donne», pensò quasi stupito. «Prima la signorina Bostner, poi la moglie dell'usciere del tribunale, infine questa piccola infermiera che sembra avere un bisogno incomprensibile di me. Come siede sulle mie ginocchia, quasi fosse il solo posto adatto per lei. No, rispose Leni e scosse adagio la testa. Allora io non potrò aiutarla. Ma lei non vuole per niente il mio aiuto, non gliene importa niente, è ostinato e non si lascia convincere. Dopo un momento chiese... Ha un'amica? No, disse K. Ma sì, disse lei. Ah già, disse K. Pensi, l'ho rinnegata, eppure porto con me persino la sua fotografia. Su preghiera di lei le mostrò una fotografia di Elsa. Rannicchiata sulle sue ginocchia, Leni studiò il ritratto. Era un'istantanea. Elsa era stata presa dopo un ballo in tondo di quelli cui partecipava volentieri nel suo locale. La gonna le volava ancora intorno a spirale, le mani posavano sulle anche sode e con il collo allungato guardava ridendo da una parte. La fotografia non permetteva di vedere a chi andasse quella risata. «Ha il corpetto molto tirato», disse Leni, indicando il punto dove secondo lei si vedeva. «Non mi piace, è dura, senza finezza. Forse con lei però è carina e gentile. Da ritratto si potrebbe anche pensarlo. Ragazze così alte e robuste spesso sanno solo essere carine e gentili. Ma saprebbe sacrificarsi per lei?» No, disse K. Non è né carina né gentile, né saprebbe sacrificarsi per me. D'altra parte, fino ad ora non ho preteso da lei né l'uno né l'altro. Non ho mai neppure guardato il ritratto con tanta attenzione come lei. Vuol dire dunque che non le importa molto di lei, disse Leni, che non è per niente la sua amica. Ma sì, disse K. Non mi rimangio la parola. Poniamo che adesso sia la sua amica, disse Leni. Eppure non sentirebbe molto la sua mancanza se la perdesse o la scambiasse con un'altra, per esempio con me. Certo, disse K sorridendo. Potrebbe darsi, ma ha un grande vantaggio nei suoi confronti. Non sa nulla del mio processo. E anche se ne sapesse qualcosa, non se ne darebbe pensiero. Non cercherebbe di indurmi alla cedevolezza. Non è un vantaggio, disse Leni. Se il suo vantaggio è tutto qui, non mi perdo d'animo. Ha qualche difetto fisico? Un difetto fisico? Chiese K. Sì, disse Leni. Io ho un piccolo difetto, guardi. Divaricò il medio e l'anulare della destra, scoprendo una membrana che arrivava quasi fino alla falangetta delle brevi dita. Nel buio K non scorse subito quello che lei voleva mostrargli. Leni gli prese la mano perché toccasse. «Che scherzo di natura!» disse K. E quando ebbe esaminato tutta la mano, soggiunse. «Che grazioso artiglio!» Con una specie di fierezza, Leni guardava K, che continuava ad aprire e chiudere meravigliato le sue dita, finché in ultimo, dopo averle lievemente baciate, le lasciò. «Oh!» esclamò lei subito. «Mi ha baciata!» Rapida, la bocca aperta, si arrampicò in ginocchio sul suo grembo. K la guardava quasi sbalordito. Ora che gli era tanto vicino, emanava un odore amaro e pungente, come di pepe. Lei trasse a sé il suo capo. Si chinò su di lui per mordere e baciargli il collo. Arrivò a mordergli i capelli. «Mi ha scambiata!» esclamava di tanto in tanto. «Lo vedo bene! Adesso mi ha scambiata!» A questo punto il suo ginocchio scivolò. Con un piccolo grido finì quasi sul tappeto. K la abbracciò per trattenerla e fu trascinato giù da lei. «Adesso mi appartieni», lei disse. «Ecco la chiave di casa, Vieni quando vuoi. Furono le sue ultime parole e un bacio vagante lo colpì ancora alle spalle mentre se ne stava andando. Quando uscì dal portone cadeva una pioggia leggera. Stava per andare in mezzo alla strada, per poter forse ancora vedere Leni alla finestra, quando da un'automobile che aspettava davanti alla casa e che K distratto non aveva notato, si precipitò fuori lo zio. Lo afferrò per le braccia e lo spinse contro il portone, come se lo volesse inchiodare. «Giovanotto!» gridò. «Come hai potuto fare una cosa simile? Non sai che danno hai fatto alla tua causa, che stava andando bene? Ti rintani con uno sporco cosino che per giunta è chiaramente l'amica dell'avvocato e te ne stai via per ore! Non cerchi neppure un pretesto, non nascondi niente, no! Fai tutto allo scoperto, corri da lei e rimani da lei! E intanto noi stiamo seduti, lo zio che si dà da fare per te, l'avvocato che bisogna tirare dalla tua e soprattutto il capufficio, questo gran personaggio che ha addirittura in mano la tua causa al punto in cui è arrivata. Ci stiamo consigliando sul come aiutarti. Io devo trattare con riguardo l'avvocato. Questo fa lo stesso con il capufficio e tu avresti dunque ogni motivo per aiutare almeno me. Invece rimani via. Alla fine non si può tenere nascosto, ma sono persone di mondo, gentili, non ne fanno parola, hanno riguardo per me, ma alla fine neppure loro resistono più. E visto che non possono parlare della causa, ammutoliscono. Siamo rimasti seduti in silenzio parecchi minuti, tendendo l'orecchio per sentire se tu venivi una buona volta. Tutto inutile. Alla fine il capufficio, che si è trattenuto molto di più di quanto fosse nelle sue intenzioni, si alza. Prende congedo, visibilmente mi compiange senza potermi aiutare con una cortesia inconcepibile. Si trattiene ancora un po' sulla porta e poi se ne va. Certo, io ero felice che se ne fosse andato. Non avevo più aria per respirare. L'avvocato con il suo male ne ha risentito ancora di più. Il poveretto non poteva neanche parlare quando mi sono accomiatato da lui. Tu devi avere contribuito al suo crollo definitivo e così affretti la morte di un uomo che è la tua ultima risorsa. E lasci me, tuo zio, qui, nella pioggia. Senti, sono bagnato fradicio, ad aspettare per ore e a tormentarmi con i miei pensieri. Thank you.